Storiacce di Raffaella Calandra. Abbiamo i ragazzi alle spalle, i ragazzi che ci stanno aiutando, volontari, che non sono più bianchi, ma sono diventati di un colore diverso e che stanno nel fango. E quindi tutto ciò che ci viene fatto devono servire a una sola cosa: a far risorgere il nostro paese. Se non abbiamo i fondi per ricostruire e per fare le strade, non abbiamo più la strada per arrivare a San Pietro. Altre strade sono state proprio cancellate e i giovani che futuro hanno qui? Lo Stato ci deve tenere presente, ci deve aiutare. Stavolta sono piovute pietre dalla montagna e hanno preso il posto delle case in questo pezzo di Sannio. Più avanti è stato il fango a sradicare borghi interi, come ha fatto con gli alberi, incapaci di trattenere tutta l'acqua. Abbracciati gli uni agli altri, hanno provato intere famiglie ad ancorarsi alla terra, mentre vecchi valloni, divenuti all'improvviso furie, si prendevano aziende faticosamente in risalita dalla crisi, si mangiavano le strade di questi piccoli presepi sopravvissuti a anni di emigrazione e povertà, inghiottivano i vigneti della Falanghina e dell'Aianico e interi ettari di uliveti. E con essi anche la prospettiva di un futuro, perché è questo ora che fa davvero paura, che le pietre e l'acqua si siano portati via qualcosa a cui attaccarsi per non dover partire. E da qui allora, da Paupisi, ai piedi del Taburno, parte questa puntata di Storiacce, da una terra che, come sanno gli ascoltatori delle Storiacce, è anche la mia terra, e ve lo confesso, non è stato semplice. Registrato del comune di Benevento. Si informano i cittadini che in ragione dell'allarme meteo emesso in queste ore, da domani martedì 20 ottobre e per tutta la settimana le scuole resteranno chiuse. Si invita inoltre la cittadinanza, ed in particolare quella delle zone di Ponte Valentino, Contrada Pantano, Ponticelli, Santa Clementina e via Cosimo Nuzzolo, di utilizzare tutte le misure precauzionali a loro disposizione, allontanandosi dalle abitazioni o recandosi ai piani alti. Grazie per la collaborazione. Prima il 14 ottobre, poi la settimana dopo. La pioggia fa paura ora nel Sannio, come succede quando la terra si ribella. Colpa della diga di Campolattaro? Forse, potrebbe, sussurra il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, mentre la procura di Benevento indaga per inondazione colposa. Colpa degli alvei dei fiumi non adeguatamente conservati e puliti? Colpa di case costruite negli anni della deregulation anche laddove scorrevano antichi valloni, ora tornati ad essere tali? Restano appiccicati alle macerie le ipotesi sulle ragioni di un'alluvione che così pesante da queste parti non si ricordava dagli anni 40 e che qui rischia di avere lo stesso drammatico effetto del terremoto del 1980. Guarda la sua casa distrutta, guarda i vigneti abbattuti e si riempiono di lacrime gli occhi di Leonardo Procaccini. La sua, infatti, è una delle 100 famiglie evacuate a Paupisi. Io stavo andando a letto a mezzanotte, intorno a mezzanotte così, in 10 minuti, un quarto d'ora, sono tornato a vedere un po' e mi sono reso conto che era ancora peggio, per cui sono sceso insieme a mio figlio e è andato dietro casa per vedere un po' l'acqua che defluiva. Mentre eravamo là siamo stati travolti da un'onda anomala, diciamo, che veniva dalla montagna, ci ha portato giù battendo, infatti io ho pure qualche punto di sutura alla tempia, eccetera. Si è stati proprio travolti dall'acqua. Ci è scaraventato giù quest'acqua, d'acqua, detriti, pietre, pietrisco. E così ci siamo messi in salvo, io e mio figlio dietro. Abbiamo svegliato mia moglie e mia figlia che stavano sopra e ci siamo protetti giù e quindi abbiamo aspettato l'evento che ha combinato un macello, nel senso che praticamente ha travolto tutta la mia casa, che è di 4 piani. Cioè l'acqua ha travolto la sua casa? Sì, l'acqua, mica solo acqua e massi. La stanza da letto mia, dove è stato invaso da pietre, praticamente ha diverso un muro perimetrale, due pareti, ed è entrato in camera da letto e da là è scesa giù, è invaso il piano sottostante, allagando tutto e sono entrati dei massi di dimensioni paurose, perché erano parecchi e un peso enorme, sicuramente abbiamo dovuto tirare con l'escavatrice, altrimenti non si riusciva a mano. Cioè è la montagna che è entrata dentro la vostra camera da letto, sì, dentro la vostra casa. Sì, praticamente la montagna, la causa principale è la montagna sicuramente. Poi siccome ci stanno dei valloni che defluiscono a valle, questi sono di dimensioni, si sono riaccorciati perché l'attività agricola che svolta, si tende sempre a coltivare il più possibile, e tutto quel terreno si è accumulato ed è stato trasportato, e quindi ha fatto un tutt'uno, roccia, montagna, ed è sceso a valle, poi distruggendo tutto quello che ha incontrato davanti praticamente. Voi diciamo che siete sopravvissuti davvero per miracolo? Soprattutto io e mio figlio. Ce lo prova a raccontare che cosa significa a un certo punto rendersi conto di aver perso la propria casa costruita con tanti sacrifici? C'è tutta una... i sacrifici di una vita ce ne sono là dentro, non me lo dica. Chiede aiuto questa terra fiera, dove la gente ora racconta, chi coordina i soccorsi è come impazzita per il dolore, per la consapevolezza di non avere più la propria casa, costruita a volte con le proprie mani, o l'azienda, messa in piedi e ingrandita negli anni con la fatica, in una delle aree a più bassa industrializzazione del paese. Se non di alluvione, rischia di morire di crepacuore e di abbandono questa terra. Raccontano di infarti di anziani imprenditori davanti alle colline di fango, e raccontano di giovani chiusi in un muto dolore perché, come diceva Verga, in ogni lutto ognuno piange la propria condizione. Ed è per questi ragazzi che ora che dopo giorni di sottovalutazione il dramma di questa alluvione diventa evidente anche a Roma, gli amministratori urlano: fate presto, ora come in quel maledetto 1980. Il vice sindaco di Pau Pisi, Giovanna Procaccini. Le frazioni, possiamo dire, sono state spazzate via da pietre, fango e acqua, ma quello che ci ha inguaiato sono state le pietre che sono scese dalla montagna. Realmente le case, insomma, sono svuotate. Che vuol dire che le case sono svuotate? Ci faccia capire. Nel senso che non sono più abitabili, questo è tutto. Cioè il fango e le pietre sono entrati in casa, quindi alcune persone di una frazione, specialmente di San Pietro, sono state trattenute dal cancello, dai ferri, si sono abbracciate queste persone giusto per mantenersi e non essere spazzati via dalle pietre. Questi valloni, che anticamente con molta probabilità erano dei valloni grandi, automaticamente hanno raccolto tutte le pietre e l'hanno portate a valle. Terreni, vigne, oliveti, tutto. Cioè siamo proprio invasi da pietre, quindi non è un'alluvione di acqua e fango, ma è un'alluvione di pietre. La gente non ha realizzato subito quello che è successo, perché si è guardato intorno e ha visto comunque che la famiglia era salva. Adesso sta realizzando. E nel momento in cui realizza che ha perso la casa e ha perso tutto, è come se fosse impazzita. Cioè ci arrivano chiamate di persone che noi non riusciamo a capire che cosa vogliono. C'è qualche ragazzo che non ne vuole sapere più perché ha perso tutto, non vuole parlare con nessuno. C'è come la sensazione che con la casa e con la propria attività, certo, economica, molti vedano un po' come finita anche la propria vita. Certo, certo, infatti dici: i nostri sacrifici di una vita adesso sono finiti insieme alla casa, e qualcuno non vuole andare via dalla casa, l'abbiamo evacuato, sono andati i vigili, sono andati i carabinieri, però la sera con molta probabilità c'è qualcuno che torna in casa e che dice: io voglio morire con la mia casa. Cioè è straziante proprio il fatto, eh. In questo momento di che cosa avete bisogno? Perché ci sono molti comuni che chiedono di aver bisogno di cibo, di beni per i bambini, anche di strumenti per pulire. Ecco, questo è più che altro, strumenti per pulire e diciamo alimenti, che al limite noi riusciremo a dare nel momento in cui sistemeremo queste famiglie, perché in alcune case manca anche l'acqua, a dire la verità. Abbiamo bisogno più di roba che possono consumare nel tempo. Ma voi vi siete fatti un'idea del perché queste case siano state travolte da tutte queste pietre? Ecco, quella era una zona dove scorrevano in origine dei torrenti. Lei ha parlato di valloni prima. Un poco di tutto, anche perché a monte è una montagna di pietre. Abbiamo avuto un'alluvione il 49 qua, ma non un'alluvione di pietre, un'alluvione di acqua e fango è stata allora. Ci sono stati anche interventi selvaggi, diciamo, o no? Sì, hanno fatto delle vigne, e degli olivi e hanno avuto nel passato qualche licenze o automaticamente anche loro hanno fatto così. Bisogna, diciamo, difendere quello che è l'incolumità delle persone anche nel momento in cui qualche persona ha bisogno di qualcosa, di una vigna, di un oliveto, di evitare queste cose. Questa non è terra di abusi selvaggi o di ecomostri, piuttosto di campagne a fatica sottratte alla montagna perché diventassero filari di viti con cui produrre la famosa falanghina o ettari di uliveti. Ma in passato anche qui, tra le colline Parco Nazionale del Taburno, si è costruito in zone che sarebbero poi state dichiarate rosse per rischio idrogeologico e intere famiglie lì hanno vissuto con questa consapevolezza prima che la montagna e il fiume si riprendesse quello che gli era stato tolto, come nella zona alta di Solopaca, ammette l'assessore Alfredo Di Rubbo. La parte alta del paese, perché praticamente è venuta giù la roba di un torrente della montagna, quindi ha portato giù masse enormi, alberi, crollo parziale di alcune abitazioni e danni enormi. La parte bassa del paese, dove passa il fiume Calore, è sondato il fiume, là abbiamo avuto un disastro veramente. La cantina sociale di Solopaca completamente allagata, l'olificio Soia ha subito danni per milioni di euro, completamente allagati. Tutti i comuni, soprattutto in Valle Telesina, abbiamo avuto danni enormi alle colture del vigneto, che insomma qua è la nostra fonte di sussistenza, la viticoltura. Abbiamo ettari e ettari di vigneto tra Solopaca, Ponte, Pau Pisi, completamente distrutti. Di sicuro il vostro è un comune inserito nella zona rossa, per rischio idrogeologico, sì, giusto? Sì, assolutamente, sì. Nella zona rossa però esistevano anche delle abitazioni che avevano costruito. Parliamo di anni 70, anni 80, sì. Quindi negli anni passati quindi si è costruito anche in zone laddove non si poteva costruire, cioè perché non si poteva costruire in quella zona? Perché troppo a ridosso dei torrenti? Praticamente sì. Ecco, quindi eravate, diciamo, consapevoli di avere una zona particolarmente a rischio, che è la zona... No, non eravamo consapevoli perché comunque è stato un evento eccezionale, sta piovendo da anni e il torrente non ha mai creato problemi. I danni maggiori e le distruzioni maggiori, mi sembra di capire, anche con delle case che sono state proprio travolte in pieno, se non sbaglio. Delle case parzialmente crollate, sì, questo sì. Poi figuratevi che è stata travolta completamente la cartina idrogeologica del paese. Il torrente si è allargato di metro e metro e metro, ha portato giù a valle quantità industriale di materiali, alberi, pietre. Cioè ha modificato un po' il suo percorso? Sì, praticamente sì. Ecco, ma quindi però tra le case che sono state distrutte, sia pure in parte, ci sono anche quelle che erano state costruite appunto negli anni passati nella zona rossa? In zona pericolosa, sì, certo. Ma almeno i proprietari lo sapevano che di essere in una zona... Sì, ma parliamo di case antichissime, parliamo di case del secolo scorso, ma parliamo di case proprio antiche, e alcune degli anni 70, anni 60, costruzioni nuove sono state bloccate appena c'è stata più consapevolezza che lì era una zona a rischio idrogeologico, non sono state più rilasciate da anni concessioni edilizie. A 5-6 km da qui, nelle montagne sopra il comune di Frasso Telesino, gli antichi romani avrebbero subito l'onta delle forche caudine, o forse più avanti, secondo una di quelle querelle senza fine. Qui corre anche un pezzo della via Francigena e un cartello ben più recente dice che questi sono paesi amici del benessere psicofisico. Ma per la serenità, per l'aria buona, senza inquinamento, per il verde delle montagne, ma tutto questo ora sembra assai lontano, ora che l'emergenza ha preso il posto del lento fluire del tempo. Ora che, come sentiremo nella seconda parte di Storiacce, 1500 operai rischiano di trovarsi in cassa integrazione all'improvviso e almeno altrettanti contadini rischiano di non avere più terreni e pianti da curare con le loro mani ruvide e le loro facce bruciate dal vento. Chiedi aiuto questa terra fiera, perché anche i disastri a volte non sono tutti uguali. Storiacce. Io stavo a 200 metri dal fiume, vedevo passare intere balle di fieno, di paglia, che si è portato via interi capannoni di balle di paglia, tutto. Cioè lei vedeva praticamente questa onda di piena che si trascinava via animali, fieno e anche interi capannoni? Sì, sì. Il fiume che sta davanti a noi, praticamente il livello si è alzato del tipo 10 metri. A A un certo punto l'acqua trasportava pecore e morte. A un certo punto Claudio Volla, allevatore di San Giorgio la Morara, in quest'angolo di Sannio più remoto, dentro la schiena d'Italia che è l'Appennino, ha visto la distruzione con i suoi occhi. La stessa provata a molti chilometri di distanza, in un altro Sannio che profuma già dell'area di Napoli, dal pastore di Frasso Telesino, che in una notte ha perso tutto il suo gregge, 250 pecore, con cui produceva una dolce ricotta dal sapore dei prati. Tutte inghiottite dall'acqua e trascinate laddove la montagna è solo uno sfondo lontano. Ho deviato l'acqua, sono riuscito a deviarla con i mezzi che ho io la notte, però i campi 4-5 ettari sono stati praticamente inondati, riempiti di pietre dai fiumi, dai torrenti. I ponti, siccome erano tutti lungo il corso del fiume, c'erano molti alberi, sono praticamente tutti divelti e si sono fermati vicino ai ponti, vicino ai punti dove era più stretto il fiume, e ha allagato ancora di più. In alcune zone alberi di pioppi che erano enormi, non ci sta proprio niente più, solo ed esclusivamente pietre. Lungo il percorso c'è stato qualche pecora, qualche maiale, ma alla fine li ha trascinati via tutti perché era troppo impetuoso, ha portato via le macchine, ha portato via tutto. Cioè famiglie intere che vivevano della vendita, non so, del formaggio oppure di mozzarella. Bisogna ripartire da zero, c'è chi faceva gli animali, chi faceva il tabacco, ha trasformato il paesaggio praticamente questa piena. Sono loro ora ad avere più paura, sono gli allevatori, sono i contadini mai diventati ricchi lavorando una terra poco generosa, dove arrestare ora in queste notti di pioggia e paura, più che i frutti del lavoro, sono le antiche leggende delle streghe di Benevento, ma anche l'orgoglio della propria storia che ha fatto partire la solidarietà molto prima degli aiuti e dell'attenzione nazionale, e proprio per darsi un segno di incoraggiamento continuano a restare aperti nonostante il fango nella cantina sociale di Solopaca. Il vino almeno è salvo, sospira il presidente Carmine Coletta. La parte alta del paese, perché praticamente è venuta giù la roba di un torrente della montagna, quindi ha portato giù masse enormi, alberi, crollo parziale di alcune abitazioni e danni enormi. La parte bassa del paese, dove passa il fiume Calore, è sondato il fiume, là abbiamo avuto un disastro veramente. La cantina sociale di Solopaca completamente allagata. L'olificio Soia ha subito danni per milioni di euro, completamente allagati. Tutti i comuni, soprattutto in Valle Telesina, abbiamo avuto danni enormi alle colture del vigneto, che insomma qua è la nostra fonte di sussistenza, la viticoltura. Abbiamo ettari e ettari di vigneto tra Solopaca, Ponte, Paupisi, completamente distrutti. Di sicuro il vostro è un comune inserito nella zona rossa per rischio idrogeologico, sì, giusto? Sì, assolutamente, sì. Nella zona rossa però esistevano anche delle abitazioni che avevano costruito. Parliamo di anni 70, anni 80, sì. Quindi negli anni passati quindi si è costruito anche in zone laddove non si poteva costruire, cioè perché non si poteva costruire in quella zona? Perché troppo a ridosso dei torrenti? Praticamente sì. Ecco, quindi eravate diciamo consapevoli di avere una zona particolarmente a rischio, zona... No, non eravamo consapevoli perché comunque è stato un evento eccezionale, sta piovendo da anni e il torrente non ha mai creato problemi. I danni maggiori e le distruzioni maggiori mi sembra di capire anche con delle case che sono state proprio travolte in pieno, se non sbaglio. Delle case parzialmente crollate, sì, questo sì. Poi figuratevi che è stata travolta completamente la cartina idrogeologica del paese. Il torrente si è allargato di metro e mezzo, ha portato giù a valle quantità industriali di materiali, alberi, pietre. Cioè ha modificato un po' il suo percorso? Sì, praticamente sì. È riservata e schiva la gente di queste parti, è tosta e non si rammollisce, come l'hashtag scelto per sostenere sui social l'antico pastificio Rummo, travolto da una colata di fango quando le strade sono diventate torrenti in piena, in co di quel ponte presso Benevento dove trovò morte Manfredi, ricorda Dante. Gente attaccata alle sue tradizioni, come alle erbe selvatiche con cui continua ad essere prodotto il liquore Strega, un altro pezzo d'Italia, il presidente Giuseppe Davino. La nostra provincia, ancorché non è che fosse peggio delle altre province campane, era avviata su un timido sentiero di ripresa perché gran parte dell'industria di Benevento aveva patito in maniera pesante gli effetti della recessione. un po' c'erano delle aziende tipo Rummo, tipo noi, che hanno un po' resistito, però tutto un indotto, le pensi a tutto il settore edilizio che ha sofferto in questi anni in maniera importante, adesso è ancora più depresso. Sicuramente un intervento straordinario da questo punto di vista potrebbe costituire un velano, così come succedette nella provincia di Avellina all'indomani del terremoto. In effetti poi alla fine l'intervento straordinario con la 317 ha fatto sì che quella provincia cogliesse questa occasione per avere uno sviluppo. Noi ci auguriamo che possa succedere qualcosa del genere. Quindi lei dice serve un intervento straordinario, così un po' come è successo, come ha detto lei, in occasione del terremoto dell'80, che per far sollevare una provincia che ha avuto questo problema così importante, serve un intervento di tipo straordinario. Se non vogliamo che poi i posti di lavoro, che oggi si stima che siano persi direttamente 1500 posti, poi non diventino di più, perché poi adesso un fermo di 6 mesi tutte le attività, lei si può immaginare cosa vuol dire. Non tutte le alluvioni però sono uguali, bisogna ammetterlo, e a volte ci sono pezzi d'Italia che sembrano troppo lontani, troppo sconosciuti per lasciarsi commuovere e coinvolgere, forse troppo difficili anche da raggiungere, e così almeno all'inizio gli aiuti non sono stati adeguati al disastro successo nei paesi isolati, rimasti senza elettricità, a volte senza linee telefoniche per giorni. Serve acqua, servono medicinali, serve il necessario per i bambini, servono pale per togliere il fango, serve un intervento immediato, l'area industriale muore, urlava ai nostri microfoni il sindaco di Benevento, Fausto Pepe. Ci servono centinaia di uomini e di mezzi per togliere fango che oramai è consolidato su superfici enormi dell'area industriale. Se non togliamo il fango, non attiviamo la corrente, i sistemi di fognatura sono andati in tilt perché il fango li ha già invasi, per cui si sta lavorando a questo, ma passeranno giorni, ma ci vogliono aiuti, noi non ce la facciamo da soli. È arrivato, ma è poco, ce ne serve molto, molto di più. Io oggi ho fatto un'ulteriore richiesta per avere l'esercito. Siamo in contrada Cellarulo con i nostri mezzi per lo più e con i tanti volontari della città di Benevento. Io li ringrazio sempre, i 1000 giovani che, armati delle pale che abbiamo comprato noi come comune, stanno scavando. Ma questi sono volontari che vanno ringraziati, ma non, come dire, servono, ma non possono risolvere. E se non arrivano presto, i danni diventano forti. Secondo me l'area industriale muore. Vi sentite un po', diciamo, più trascurati rispetto alla risposta che c'è stata per altre alluvioni successe in Italia? Se dovessi dare una valutazione sul piano generale, dico che l'Italia è fatta da una serie A e da una serie B, e noi rappresentiamo storicamente la serie B. Se rappresentiamo la serie B anche nei disastri, diventa una questione non solo di ordine, come dire, politico, ma proprio di ordine morale di un paese. Come dicevamo, questa è terra di storie antiche e di leggende fitte, il Sannio. Linea allora alle mitiche storiacce e a Giorgio Iranò, professore dell'Università di Trento e autore per Sonzogno di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. In questo paese anche la pioggia è nemica, diceva lo scrittore Corrado Alvaro del suo sud. O non si accosta per mesi o si rovescia da tutte le cateratte. E un giorno un contadino calabrese, dopo l'ennesima alluvione, si rivolse a Francesco Saverio Nitti, primo ministro negli anni prima del fascismo, dicendogli: «Qui abbiamo un Dio che quando piove ci porta a mare». Già, un Dio nemico. Quel contadino calabrese, anonimo, vedeva gli eventi naturali con occhi, per così dire, mitologici. Anche gli antichi, dietro a ogni vento terribile che superava le forze dell'umano, vedevano l'impronta di un Dio. Per esempio nella forza dei fiumi, che portano vita e fertilità, ma anche morte e distruzione. Le divinità dei fiumi, nella mitologia antica, sono spesso raffigurate come mostri. Figure in genere metà uomo e metà toro, minotauri violenti e invincibili. Si diceva che Acheloo, la personificazione di uno dei fiumi più impetuosi della Grecia, fosse così potente che solo il grande Ercole riuscì con grande fatica a sconfiggerlo. Diceva ancora Corrado Alvaro: «Nel sottofondo e nella memoria degli abitanti dei paesi meridionali c'è l'urlo del torrente. L'urlo, come quello di un animale feroce o di un dio mostruoso, appunto. Le acque sono, possono essere cattive, anche se forse mai quanto gli uomini. Ricordava sempre Alvaro, anno 1958, sulle catastrofi nel nostro paese si sono formate fortune imponenti. Tante sono state le testimonianze ricevute, alcune sono anche nella pagina delle vostre storiacce sul sito radio24.it. Se avete anche voi racconti, se avete segnalazioni, quella è la pagina per voi, ricordate. Scriveteci altrimenti a storiacce@radio24.it. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Questa, come tutte le altre puntate, è riascoltabile sul sito radio24.it. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.